29 aprile 1945. Era una bella giornata di pomeriggio. L'aria tiepida e profumata di foglie e di fiori mi invitò fuori di casa. Passeggiavo lungo l'Africo verso il passaggio a livelli e mi colpì un manifesto appiccicato al muro. Quella sera, al Circolo Andrea del Sarto, la Democrazia Cristiana presentava un giovane avvocato fiorentino per tenere un'orazione sui temi politici di attualità e invitava la cittadinanza a partecipare. Un comizio. Cominciavano già. Il circolo era in via San Salvi, lì a due passi da casa. Non avevo mai ascoltato un oratore, mi sarebbe piaciuto. Lungo la strada del ritorno decisi che ci sarei andata, ore 21. Mia madre fece un po' di difficoltà, ma avevo sempre seguito il mio primo stimolo a fare o non fare una cosa, e lei lo sapeva. Quando entrai la sala era già piena, non c'erano posti a sedere, andai in galleria e trovai miracolosamente una sedia libera in prima fila. Lo spettacolo sottostante era abbastanza ridicolo, teste quasi tutte disponibili alla calvizie, rari giovani, le donne ancor più rare. La politica, scienza nuova per noi, non aveva ancora fatto un ingresso nell'uso comune. Si sentì ribadire: se ne interessano gli uomini, capirai, per quanto bene avevano portato ai popoli da loro governati, avrebbero potuto dare in blocco le dimissioni. Era stato concesso il voto attivo e passivo alle donne, potevano eleggere e a loro volta essere elette, ma loro, le donne, non capirono subito l'importanza di un diritto simile. Molti cittadini di sesso maschile poi giudicarono che questa elargizione fosse d'accordo con i costumi democratici e avanzati dei paesi al di là delle Alpi e non stimolarono le loro donne ad usufruire bene di questo diritto. Per decidere in politica bastava uno in famiglia, era questa la concezione comune. Era assorta in questi pensieri quando mi resi conto che l'oratore stava già sul palcoscenico. Nessuno l'aveva presentato, era solo, un tavolo, una sedia, un microfono, una bottiglia d'acqua, un bicchiere e lui. Mi fece quasi pena, come fosse un orfano, basso di statura, grassoccio, un po' impacciato nei movimenti, giovane, alle prime armi. Silenzio in aula. La voce dell'oratore era chioccia, a volte aveva un vibrare acuto, quasi il battere di un'arma pesante. Il tono non si addiceva al contenuto, parole spente, senza colore. Avevo l'impressione di trovarmi su una strada fredda e sognavo campi d'oro, frumenti impazziti, arruffati dal vento, uomini forti, non fantasmi senza carne. Del resto, anch'io ero incappata nell'errore di mettere da parte la vita che avevo passato e nasconderla per non vederla più. Invece dovevo ricomporla a colori forti, metterla davanti perché potessi osservarla e ricordare. La memoria è storia, la mia come quella di tutti gli altri. Ecco cosa vuole l'oratore, farci dimenticare, tutti in pace e in armonia. Mettiamo da parte il passato, quel che è stato, non pensiamoci più. Mi arrivava all'orecchio questo freddo discorrere, come volesse buttare acqua sul fuoco. Ma l'incendio, dov'era? Guardai la gente in platea, tutti languivano, guardavano qua e là. Diceva che la Democrazia Cristiana favoriva la candidatura di Nitti a presidente del Consiglio, ora che Bonomi aveva dato le dimissioni. Perché non parli? Perché appartiene alla sinistra? Nitti è un uomo di destra, non si trovava forse nella schiera di quegli uomini cosiddetti liberali che abdicarono di fronte al fascismo e lo lasciarono libero di svilupparsi, di rafforzarsi con la loro neghittosità? E dopo con la loro collaborazione? Perché si rimettono sulla scena questi elementi? Non si vuole un radicale cambiamento? Erano le mie considerazioni, ero scontenta e delusa. L'oratore non aveva passione né nuove istanze da proporre, nessuno lo seguiva più, non sapeva allontanare il dubbio, la paura avanzava. No alla consultazione elettorale, presto, il popolo non è preparato all'uso della democrazia, la costituente è prematura, bisogna abituarsi piano piano alla libertà, la luce, la troppa luce fa male, come quando si esce dall'oscurità, un po' per volta. No al referendum istituzionale, la Repubblica può essere un salto nel buio. Mi nasceva nell'animo un'ira sorda, che si faceva sempre più chiara e prepotente. Uomini così sono bauli di parole, divise a scompartimenti con etichette colorate. Ci manderanno a letto presto la sera, addormentano anche chi non ha sonno, non hanno coraggio e ne lo possono dare agli altri. Le idee mi grondavano addosso come gocce di pioggia. La carta d'apparati con cui era rivestito il mio pensiero cadeva a pezzi, girai la chiave del contatore del tempo. Mentre l'oratore parlava, pensai tumultuosamente a tante cose. Immagini e parole doloranti mi fecero salire la lacrima agli occhi. I giorni miserabili delle fughe, i divieti, gli impedimenti, gli insuccessi, la discordia, il rancore, la paura di aver detto troppo, la fame, l'inquietudine, lo sconforto, la rivolta. Pensai a tante cose che mi avevano regalato sofferenza e odio. A un pomeriggio di settembre, quando i tedeschi fecero razzia di vite umane, alla furia bestiale della guerra, alla miseria lunga, opaca, Sergio assassinato, ai tedeschi padroni della città, ai giorni di lutto, alle devastazioni, alle stragi, agli uomini infestati come scarafaggi, ai giovani ciondolanti come cenci ai fali della luce. Oddio no, non permettere che si abbandoni la speranza della libertà sulla riva di un pallido lago di morte. Tanto vale usare violenza per far saltare in aria ogni cosa, seppellire tutto, provocare un'emorragia. Se ci si rimette a sedere sul sedere come i beduini, si marcisce, l'epidemia si diffonda e capii perché ero lì. Ogni cosa ha il suo momento e la sua giustificazione. Sentii il rumore di una sedia, l'oratore aveva finito, se Dio vuole aveva finito. Chiese se qualcuno voleva parlare o contraddittorio, tutti fermi e zitti, com'era possibile? Mi sembrò tanto strano. Ci siamo lamentati per anni di non poter esprimere il nostro pensiero, ora si poteva parlare, perché nessuno alzava la mano? Le conquiste non valevano niente se si mettevano da parte. L'oratore democristiano insisteva, coraggio, se avete domande da fare fatele pure, siamo in democrazia, che diamine. Io sono qui per rispondere. Nessuna reazione. La reazione avvenne di nascosto dentro di me. Era limiti estremi del mio spirito. Mi sentivo libera dal serraglio, dalla poltiglia, affamata, assetata, pulita. Sentivo la mia voce, distinta e chiara, uscire di soffiato da me. Io chiedo la parola. In piedi, con le mani appoggiate alla ringhiera, cominciai senza tremare. I pensieri si allungavano nel tempo, l'inerzia scivolava via. Sentì di aver vissuto una vita odiosa dove non avevo avuto nessun diritto di partecipare al di fuori del dono del pensiero, ai fatti, agli atti del vivere umano. E non avevo, no, il desiderio di recuperare il passato, ma di farne uso per non ricadere nella incoscienza.